quando ho impugnato una penna. La mia vita è cambiata, vita dannata, vita sprecata, finché la musica me l'ha salvata. Cucita al cuore tipo uno stemma, preziosa come una gemma, nessuno stratagemma. La relazione è iniziata, è stato amore a primo udito. Devo a lei quello che sono adesso. Passato dal dolore ad un vuoto riempito. Senza di lei non sarei lo stesso. Per ogni stato d'animo una canzone diversa. Vita imperversa, introversa e la testa persa. Sei in panico, in un mare di merda ci navigo. Cosa certa passo il valico. Io non arbitro, all'astrico. Braveheart, cuore impavido. Chi non capisce patisce. Chi ci patisce fallisce. Chi ci fallisce impazzisce, sparisce, svanisce in un solo attimo. Faccio rap al massimo, sempre qua più carico. Ho la mia mentalità, zero fan, ma non sono fanatico. Da molto tempo ormai sta musica mi fa volare. Non mi fa pensare, mi fa superare i miei guai. Senza non ci riesco a stare, è un salvavita personale che non mollerò mai. La musica è un salvavita. Libera questa realtà, zia, trasformala in fantasia. L'unica che mi ha salvata e mi è servita a cambiare la vita mia. Mi fa vivere e provare più di una sensazione. Credo in lei, vivo dentro ad una poesia. Scrivo, se no farei qualche pazzia. Sfogo la rabbia su carta bianca, scelta migliore. Remo contro vento, so che faccio, mi imbatto nella tempesta. La vibrazione che sento nervosa che tengo dentro. Urlo dolore, mando calore, faccio uscire il rumore dalla mia testa. Vagando in giro la notte nel buio, lo sguardo perso. Speri che la strada e il tuo destino sia diverso, meno complesso. Resisto anche se molte cose che ho visto mi hanno scosso. Capisco di essere più forte all'impatto adesso. Combatto ogni giorno con questo mondo impostore. Ogni passo fatto insieme per ogni caduta mi ha rialzata. Cicatrice nell'anima, il gelo nel cuore. Il silenzio è uno squallore. Senza lei sarei disperata. Disperata. Disperata. Disperata. Da molto tempo ormai sta musica mi fa volare. Non mi fa pensare, mi fa superare i miei guai. Senza non ci riesco a stare, è un salvavita personale che non mollerò mai. La musica è un salvavita. Il mio salvavita. Senza di lei la mia vita sarebbe finita.